ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'obiettivo della ripresa delle attività didattiche in presenza è stato ed è impegnativo. Stiamo provando a guardare oltre l'emergenza, cercando di generare dalla risposta alla crisi anche delle opportunità di miglioramento e di sviluppo. Solo per la ripartenza di settembre abbiamo stanziato oltre 2,9 miliardi di euro. Una cifra non banale. Nessun altro paese europeo ha messo tante risorse sul capitolo ripartenza. Questo ha sottolineato, care ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi la ministra dell'istruzione Azzolina in commissione al Senato a proposito appunto dell'avvio del nuovo anno scolastico in questi frangenti davvero eccezionali, al di là di ritardi, di perplessità, di preoccupazioni eccetera, davvero una situazione inedita, totalmente inedita. Nel frattempo in Francia si sta pensando, fra le altre cose, di ridurre il periodo di quarantena in cui si è isolati o perché contagiati o per precauzione, insomma, da 14 giorni a 7 giorni. E per quanto riguarda l'Italia, il vice ministro della Salute Sileri ha detto oggi: ma vediamo se ci sono delle evidenze scientifiche, potrebbe essere una misura adottata anche in Italia, ma aspettiamo appunto che ci siano delle certezze scientifiche. Per parlarne sarà ospite qui a Effetto Notte il professor Matteo Bassetti del San Martino di Genova, che ha detto che potrebbe essere una soluzione ragionevole. Capiremo un po', insomma, qual è la sua posizione. Poi ci concentreremo sulla politica e fra le altre cose torneremo anche sul brutale omicidio, pestaggio, e quindi che ha causato la morte del ragazzo di 21 anni a Colleferro, con i ventenni arrestati che adesso puntano il dito verso altri, dicono, respingono le accuse. Insomma, approfondiremo un po' i dettagli e gli sviluppi di questa inchiesta. Per i vostri commenti, lo sapete, riflessioni, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure i WhatsApp al 349 238 6666. Lo ripeto, WhatsApp 349 238 6666. Allacciate le cinture che si parte. I dati sul coronavirus in Italia: è di 10 morti, 2 in meno di ieri, e di 1370 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore. E in Francia si va verso la riduzione della quarantena da 14 giorni a 7. Il viceministro Sileri dice che è possibile se ci saranno evidenze scientifiche anche in Italia. Per parlarne è Effetto Notte il professor Bassetti del San Martino di Genova. Scuola: la ministra Azzolina in Senato sottolinea che nessun paese in Europa ha investito tanto quanto l'Italia per la ripartenza e conferma test sierologici a campione agli studenti. E domani al via le scuole dell'infanzia a Roma. Il ragazzo pestato a morte a Colleferro: non abbiamo toccato Willy, si difendono i due fratelli accusati del pestaggio. Conte si dice scioccato e telefona alla famiglia del ragazzo ucciso. Il caso Navalny: attaccata alla sede del dissidente russo in Siberia, 3 volontari hanno un malore. Bielorussia: scomparsa un'altra dissidente. Sentenza della Cassazione: mandare una foto hard a un minore su WhatsApp è violenza sessuale. Monza: nasce il primo supermercato per persone autistiche. Partiamo quindi dai dati aggiornati quotidianamente dal Ministero della Salute relativamente al coronavirus in Italia. Per quanto riguarda poi le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato a Milano, il suo medico Alberto Zangrillo parla di quadro clinico in costante evoluzione favorevole. I contagi, 1370, sono 262 in più, ma l'aumento risulta minimo se si pensa che i tamponi, oltre 92.000, sono stati il doppio rispetto alle 24 ore precedenti. Ci sono altre 10 vittime, purtroppo, 41 nuovi ricoverati e uno in più in terapia intensiva. Nessuna regione senza casi, la Lombardia ha riconquistato il primato con 271 nuovi contagi, seguita dai 249 della Campania e dai 143 in Puglia, dove pesa il nuovo focolaio con 78 positivi in un'azienda di Polignano a Mare. 105 i nuovi casi in Veneto. Qui all'ospedale di Verona, che collabora con lo Spallanzani di Roma, è iniziata la sperimentazione del vaccino italiano sui primi 6 volontari, 6 i mesi necessari per capire se la strada è quella giusta. Intanto, dopo la decisione presa in Francia sul dimezzamento della quarantena, anche in Italia si ragiona sull'opportunità di ridurla da 14 a 7 giorni. Per i francesi i primi giorni di malattia sono i più contagiosi e un isolamento più breve è anche più facile da rispettare. Concorda in Italia Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova, secondo il quale ripensare ai giorni di quarantena anche per non bloccare un paese intero fa parte degli atteggiamenti di convivenza con il virus. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di Silvio Berlusconi, vedo un aggiornamento in questi istanti dalle agenzie, vediamo cosa dice Silvio Berlusconi, torna a farsi sentire con 2 interventi telefonici dalla sua stanza di San Raffaele, dove è ricoverato appunto dalla notte di giovedì per una polmonite bilaterale da coronavirus. A quanto si apprende, il leader di Forza Italia si è collegato al telefono con una riunione del gruppo dei senatori azzurri, poi è intervenuto sempre al telefono con un comizio in Val d'Aosta per fare gli auguri ai candidati del centrodestra alle regionali. Quindi reagisce bene Silvio Berlusconi. Rendere disponibili in farmacia i test sierologici validati dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico. Sull'utilità di questo punto, appunto di poterli anche rendere disponibili in farmacia, si è convenuto nell'incontro tenuto oggi al Ministero della Salute, al quale hanno partecipato le rappresentanze del mondo della farmacia e dei farmacisti. Lo annunciano in una nota Federpharma e Assofarma, sottolineando che il Ministero della Salute si è impegnato a predisporre un elenco dei test che potranno essere effettuati nelle farmacie secondo modalità di svolgimento e di trasmissione dei dati da concordare con le autorità sanitarie. Nel frattempo il Consiglio Scientifico della Francia, lo avete sentito, ha dato il via libera alla riduzione da 14 a 7 giorni della durata dell'isolamento per le persone risultate positive al coronavirus, quindi per la quarantena, anche se il governo francese si sta prendendo alcuni giorni per decidere definitivamente, e su questo sentiremo il professor Bassetti appunto del San Martino di Genova, qui effetto notte tra poco. Ripartono intanto domani le scuole dell'infanzia a Roma e intanto la ministra dell'istruzione Azzolina rassicura in vista di lunedì, dice, quando gran parte degli studenti tornerà in classe. Siamo consapevoli che il rischio zero non esiste, richiamiamo tutti al senso di responsabilità. La ministra dell'istruzione Azzolina, in audizione al Senato, lancia un appello in vista della riapertura delle scuole, che in alcuni casi è già cominciata, ma un intervento in cui rivendica soprattutto il lavoro di questi mesi, in cui si difende dagli attacchi arrivati soprattutto dalle opposizioni. La scuola non può essere terreno di scontro, è uno dei pilastri del sistema democratico. Troppe polemiche sterili, troppe narrazioni al ribasso, come quella sui professori che non volevano tornare in aula o come le discussioni sui banchi monoposto. Un dibattito quasi surreale su questi banchi, cifre date a caso. Un mondo della scuola rivendica ancora Azzolina, che si è mobilitato con sacrificio e abnegazione. Quanto alle risorse, lo stanziamento è stato straordinario. Solo per la ripartenza di settembre abbiamo stanziato oltre 2,9 miliardi. E intanto, ad una settimana dalla ripresa degli asili nido in Trentino, un bimbo è stato trovato positivo in una struttura di Pergine Valsugana, ora quarantenne e tampone per altri 5 bambini inseriti nella stessa sezione. Protocollo anti-Covid scattato anche in una scuola dell'infanzia a Crema, con tutta una classe lasciata a casa dopo che i genitori di un bambino avevano segnalato la temperatura misurata prima dell'uscita verso scuola. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per i ragazzi più grandi si sono tenuti oggi i test di accesso ai corsi di laurea per le professioni sanitarie, la cui importanza è emersa prepotente naturalmente con la pandemia. Coronavirus dunque che ha orientato le scelte dei ragazzi nel percorso universitario, ma anche nella scelta della sede. Aumentano gli studenti che restano nella regione di provenienza. Siamo alla politica italiana, tra il voto del 20-21 settembre e il Recovery Fund. In visita di Stato a Beirut, il Presidente del Consiglio torna a parlare delle regionali. Conte ricorda di aver auspicato una collaborazione anche a livello locale fra le forze che sostengono il governo, ma preferisce non dare indicazioni sul voto disgiunto. In quell'invito non mi sono permesso di dare indicazioni su candidature, di dare indicazioni di voto, ho fatto un invito al dialogo. Conte lascia poi una porta aperta all'utilizzo del MES, questione che divide PD e 5 Stelle. Se abbiamo progetti da realizzare e serviranno risorse, lo valuteremo insieme in Parlamento, dice il Premier. Il sì del PD al referendum sul taglio dei parlamentari rafforza la maggioranza, afferma intanto il ministro degli Esteri Di Maio. Il centrodestra, dal canto suo, resta all'attacco in vista delle regionali, ma il leader della Lega Salvini a 24 mattino esclude un impatto del voto sul governo. Non è un voto ideologico quello delle regionali, non è il voto europeo, il voto politico nazionale. È un voto per la sanità, per le strade, per la raccolta dei rifiuti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Raddoppiare il tasso di crescita dell'economia all'1,6% in linea con la media europea e aumentare di 10 punti percentuali il tasso di occupazione è quanto prevede il governo nella bozza sul piano per le linee guida del Recovery Plan italiano. Fra le pedine da mettere in campo ci sono anche la riforma dell'IRPEF, la digitalizzazione, le infrastrutture per la mobilità, l'istruzione, la formazione e la salute. Le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una trentina di pagine divise in 6 macro missioni, saranno domani sul tavolo della prima riunione del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei convocato a Palazzo Chigi. Le risorse del Recovery Fund, avverte il ministro Luigi Di Maio, vanno utilizzate al meglio e la priorità deve essere il lavoro, mentre i senatori del PD chiedono che il Recovery Fund e le linee guida del piano siano discussi in Parlamento. A Bruxelles, il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, auspica che il Recovery Fund parta al più presto. L'Unione, puntualizza, controllerà le spese dei paesi. Il debito generato con il Recovery Fund, dice il commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, sarà ripagato con le risorse europee. La deroga su aiuti di Stato e patto di stabilità, aggiunge, non è eterna. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero adesso 3 volontari legati al leader dell'opposizione russo Alexei Navalny, lo ricordiamo in gravi condizioni in Germania per avvelenamento, si sono sentiti male mentre lavoravano a Novosibirsk in Siberia. Secondo i testimoni, 2 uomini con una maschera sul volto sono entrati nell'edificio e hanno gettato all'interno una boccetta con un non meglio precisato liquido giallo. E per la Bielorussia invece è scomparsa un'altra dissidente in Bielorussia, mentre non è ancora chiaro cosa sia successo a Maria Kolesnikova, fermata al confine con l'Ucraina. Io non me ne vado così. Siamo pronti a riforme costituzionali, poi non escludo il voto anticipato. Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, illegittimo secondo l'opposizione, ha illustrato la propria agenda a un gruppo di giornalisti venuti a Minsk dalla Russia, alla quale è tornato ad appoggiarsi. Ma secondo Svetlana Tikhanovskaya, la Costituzione dovrà essere riscritta solo dopo nuove elezioni. La leader dell'opposizione ha anche denunciato la scomparsa di un'altra collaboratrice, Antonina Konovalova. La repressione continua, mentre si cerca di chiarire la sorte di un'altra alleata di Svetlana. Maria Kolesnikova era scomparsa lunedì. Di quanto avvenuto esistono 2 versioni. Secondo le guardie di frontiera bielorusse, l'attivista è stata arrestata mentre stava cercando di fuggire in Ucraina. Per le autorità ucraine, invece, i servizi bielorussi hanno cercato di espellerla dal paese, così come hanno fatto con Tikhanovskaya. Per impedirlo, Maria ha stracciato il passaporto, in modo che le guardie di frontiera ucraine non potessero accoglierla. Il suo destino resta in Bielorussia. Antonella Scott, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Noi in Italia con il pestaggio a Colleferro che ha portato alla morte del 21enne Willy Monteiro Duarte. Tra stasera e domani il GIP di Velletri deciderà sulla convalida dell'arresto dei 4 giovani che nell'interrogatorio in carcere hanno respinto le accuse nei loro confronti. Poi per gli sviluppi dell'inchiesta comunque ci sarà spazio nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Violenza contro le donne, l'Aula del Senato oggi ha approvato con 211 sì e un voto contrario la risoluzione bipartisan sulla relazione relativa alla gestione dei servizi antiviolenza alle donne e sul finanziamento dei centri antiviolenza e le case rifugio. La relazione era stata votata all'unanimità dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio il 14 luglio scorso e intervenendo al Senato oggi la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha annunciato la convocazione di una conferenza straordinaria. Intendo convocare una conferenza straordinaria che veda coinvolti tutti i soggetti oggi protagonisti del contrasto alla violenza contro le donne, dei centri antiviolenza, le regioni, la commissione femminicidio, gli enti locali, le forze dell'ordine, tutti i componenti della cabina di regia, non solo per verificare il piano strategico nazionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne, ma per disegnare una nuova progettualità, eventualmente un nuovo sistema che accompagni il nostro Paese nel contrasto di questo fenomeno, ma soprattutto nella risposta alle singole vite delle donne alle quali oggi dobbiamo davvero tutto il nostro impegno, sia come istituzione che come Paese. Pedopornografia. I carabinieri di Sarzana, vicino alla Spezia, hanno scoperto una rete di pedopornografia online. 67 persone sono state denunciate in stato di libertà a vario titolo per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico e istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. A questo proposito c'è oggi una sentenza della Cassazione che dice: legittimo contestare la violenza sessuale anche a chi invia foto hard via WhatsApp a un minore. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione, respingendo il ricorso degli avvocati di un uomo indagato per aver inviato messaggi e foto esplicite a una ragazza minorenne, invitandola a fare altrettanto. I viaggi di Radio 24. Secondo appuntamento col nostro viaggio nelle città in movimento. La ripresa delle scuole, il rientro almeno parziale dallo smart working, mette a dura prova le città italiane. Oggi andiamo a Genova da Andrea Ferro. Le statistiche parziali dicono che dall'inizio di settembre i passeggeri sono il 75-80% rispetto alla media pre-Covid, quando erano circa 130.000 i genovesi che almeno una volta al giorno salivano su mezzo. Per riavvicinarsi alla normalità bisognerà attendere lunedì, quando riapriranno le scuole. Per il trasporto pubblico quindi sarà un test significativo. Queste le voci raccolte oggi alle fermate in città. Fa un po' impressione l'idea di trovarsi in una folla su un autobus? No. Io ho fatto l'infermiera, so cosa vuol dire. Le prevenzioni è la base principale, non me ne freghismo. Quando c'è più persone che magari non fanno attenzione, così, però tanto è così, no? O vai a piedi. Tipo autobus ogni 5 minuti, così si creerebbe meno affollamento anche. Lei è un tassista, come vede questi primi giorni, diciamo così, di ripresa? Dal mio punto di vista lo smart working ha comunque un po' ucciso un po' il lavoro. Basta vedere le attività, i bar. Ma cosa succederà se su un bus saliranno più passeggeri rispetto al limite massimo dell'80% della capienza fissato dall'ultimo decreto? Lo abbiamo chiesto a Marco Beltrami, amministratore unico di AMT. Noi abbiamo una procedura per cui l'autista, se ha occasione di accorgersi, però ripeto, l'autista guida e deve guidare, però avesse sensazione di un particolare affollamento, c'è una procedura per cui l'autista chiama il centro operativo e il centro operativo in qualche modo interviene. Può intervenire o immediatamente mettendo un altro mezzo a disposizione o anche coinvolgendo eventualmente i vigili urbani e segnalando che si sta creando una situazione di affollamento eccessivo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Addio colfe badanti, arriva l'assistente familiare. Le collaboratrici domestiche si chiameranno d'ora in poi assistenti familiari e saranno inquadrate in livelli diversi a seconda delle loro competenze e mansioni, guardando soprattutto al lavoro di cura dei bambini e delle persone non autosufficienti. Nel contratto del lavoro domestico appena rinnovato tra i sindacati del settore e le associazioni datoriali che rappresentano le famiglie, sono state introdotte novità soprattutto per quelle famiglie che hanno bisogno di un aiuto 24 ore su 24, come quelle che devono prendersi cura di anziani non autosufficienti. L'aumento salariale si limita a 12 euro mensili a partire da gennaio, in media per il livello B super, portando la retribuzione minima per una persona convivente a 880 euro. Nasce a Monza il primo supermercato per persone autistiche. Luci più basse, niente suoni forti, priorità alle casse, personale appositamente formato, immagini che spiegano cosa si trova in ogni corsia. Sono alcuni degli accorgimenti adottati dal supermercato Coop di Monza, che aprirà al pubblico il prossimo 10 settembre per diventare il primo supermercato in Italia autism friendly, cioè adatto anche alle persone autistiche. Il progetto, presentato oggi a Monza da Coop Lombardia, ha visto la collaborazione di due associazioni di familiari di persone autistiche, Alla 3 e Pizza Out. Parleremo poi di cinema con un film appassionante in un bellissimo bianco e nero, Cari compagni, presentato in concorso alla 77esima edizione. Poi naturalmente altri film e documentari, questo poi verso la fine della puntata. Detto adesso, aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme per cominciare ad addentrarci in alcune notizie della giornata insieme agli ospiti. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, che è il numero per i vostri WhatsApp, dove per esempio scrive qualcuno che le regionali non abbiano valenza governativa significa che Salvini non andrà in giro a suonare i citofoni, scherza un ascoltatore. E poi, mentre qualcuno dice, ma in questo paese si muore solo di Covid, ancora c'è qualcuno che non ha capito che cosa è successo nei mesi che hanno preceduto questo periodo, che ancora non ne siamo usciti, non ne usciremo noi e tutto il mondo finché non ci sarà un vaccino. È una situazione eccezionale in senso negativo che ha riguardato tutto il mondo, che ha tenuto in ginocchio il mondo, che sta pesando gravemente anche sulle economie, anche sulla nostra. C'è ancora qualcuno che veramente evidentemente è nell'iperuranio. Comunque, a proposito di questo argomento, nella prima parte della puntata vi ho dato i dati aggiornati sul coronavirus in Italia, il bilancio delle ultime 24 ore con 10 morti, come se non fossero abbastanza, quasi 36.000 sinora, e 1.370 contagiati. Sono i dati del Ministero della Salute. All'aumento dei contagiati è corrisposto comunque un netto incremento dei tamponi effettuati. Per quanto riguarda la scuola, che sapete è giustamente, continua a essere al centro dell'impegno del governo e anche delle preoccupazioni più in generale, vista appunto, lo ribadisco, l'eccezionalità del momento, la ministra dell'istruzione Azzolina ha detto oggi in commissione in Senato, l'avete sentita anche all'inizio, fra le altre cose, che le misure di sicurezza in Italia sono tra le più rigorose in Unione Europea. Sentiamo. Abbiamo collaborato con le autorità sanitarie per avere regole condivise. E se queste ultime si sono evolute nel corso dell'estate è perché il quadro di una pandemia non è una fotografia, non è affatto statico. E al mutare delle condizioni la politica può e deve prendere nuove decisioni. E lo abbiamo fatto. Oggi abbiamo regole chiare tra le più rigorose in Europa. E poi ha anche toccato l'amministrazione nel tema della quarantena, dell'eventuale quarantena. Nel caso in cui ci sia un sospetto Covid, lo studente viene accompagnato in uno spazio ad hoc che è presente all'interno della scuola. Immediatamente si chiamano i genitori e si mettono i genitori e lo studente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale, quindi ci si sposta dalla scuola alla sanità. Certo. Lì si fa il tampone, si farà il tampone e se dovesse esserci un caso di positività, grazie al registro dei contatti che si tiene all'interno della scuola, si capirà quante altre persone devono o non devono andare in quarantena. E a proposito di quarantena, del periodo cioè in cui bisogna stare isolati per capire sia quando si è contagiati sia per precauzione, per capire se si è positivi oppure no, il Consiglio Scientifico della Francia ha dato via libera oggi alla riduzione da 14 a 7 giorni appunto del periodo di isolamento, della quarantena. Lo ha annunciato il Ministro della Salute anche se ha detto che il governo francese intende prendersi ancora qualche giorno per decidere definitivamente. Questa è sicuramente una boccata d'ossigeno per le imprese che hanno accolto positivamente questo annuncio e anche per i cittadini chiusi in casa anche solo per precauzione. Per quanto riguarda l'Italia, il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha detto tutto dipende dalle evidenze scientifiche, in tal senso se verranno confermate allora si procederà a ridurre la durata della quarantena. Allora su questo coinvolgo il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e ordinario di malattie infettive all'Università di Genova. Bentornato professor Bassetti. Buonasera, buonasera a lei. Come sta? Bene, grazie, bene. Bene, è andata bene l'estate? Diciamo che sì, è stata un'estate diversa, ma sicuramente impegnativa. Sì. Professor Bassetti, lei ha detto all'ANSA che a proposito di questa decisione della Francia è effettivamente ragionevole pensare a un cambiamento del periodo di quarantena anche in Italia. Ma sì, guardi, allora, tanto credo che la Francia abbia sempre insegnato al mondo tante cose, insomma il più prestigioso istituto di virologia al mondo risiede a Parigi, che è l'Istituto Pasteur, quindi immagino che se i sanitari francesi hanno suggerito al ministro questo tipo di misura lo abbiano fatto a ragion veduta. Anche se lei mi perdoni se la interrompo, si ricorda che all'inizio quando fummo colpiti noi in Italia come primo paese occidentale dopo la Cina, la Francia insomma aveva un po', diciamo, faceva del sarcasmo, no? Nei confronti dell'Italia, come se fosse completamente al di fuori. Però insomma io credo che, guardi, per la nostra vicinanza geografica, io vivo a Genova e siamo a 150 chilometri dal confine, certo. È chiaro che una misura, se la Francia dovesse decidere una misura del genere, non è ancora decisa, ma credo che lo deciderà, io credo che sarebbe opportuno che anche noi facessimo una riflessione, perché vede, noi abbiamo tanta gente che fa la transfrontaliera e pensare che se uno ha un contatto in Francia, sta in quarantena 7 giorni, mentre se ce l'ha 10 chilometri più in là, in quarantena 14, diventa sempre quelle cose un po' difficili in un paese comunque che non ha più confini come l'Europa. Quindi la ragione viene da delle evidenze scientifiche, cioè fondamentalmente se devi sviluppare i sintomi, li sviluppi in genere a una mediana al quinto giorno, quindi dal momento in cui tu hai il contatto col caso certo. Quindi e ragionevolmente si dice che nei secondi sette giorni, cioè fatidici dal settimo al quattordicesimo, la contagiosità dovrebbe, io dico, uso sempre il condizionale perché naturalmente usiamo il condizionale, essere molto minore, addirittura non essere contagioso. E questo introduce anche il secondo tema altrettanto importante, che su cui l'OMS l'ha già espresso a giugno e il CDC si è espresso da poco, che dice che appunto potrebbe non essere più valido neanche il doppio tampone, quindi il cosiddetto doppio tampone negativo, per tornare ad avere una vita normale. Credo che siano cose che sarebbe bene che anche noi prendessimo in considerazione. Con questo non è detto che le dobbiamo fare, dobbiamo prendere in considerazione se ci sono delle evidenze scientifiche, come mi auguro ci siano state per il Consiglio Superiore della Sanità francese, spero che possano altrettanto esserci anche per il nostro. Professor Bassetti, lei, lo ricordo, è tra i 10 scienziati che a giugno avevano firmato quel documento sul virus che riguardava, che riteneva che ci fosse un crollo dei malati, che la crisi fosse superata. Ricordo capofila Zangrillo, no? Che è del San Raffaele, attualmente in cura l'ex presidente del Consiglio Berlusconi, anche se non tutti erano d'accordo, come il virologo Galli, come Crisanti, insomma si erano chiarati un po' due schieramenti. In questi giorni il professor Zangrillo, in una conferenza stampa dopo il ricovero di Berlusconi a San Raffaele, aveva detto: forse in quel momento, quando dissi che il virus era clinicamente morto, ho usato dei toni stonati. Sentiamo questo passaggio. Non nego che il 31 di maggio di quest'anno, quando in una trasmissione televisiva dissi, perché sollecitato provocatoriamente, il virus è clinicamente morto, ho usato un tono forte, probabilmente stonato, ma che fotografava quello che noi osservavamo e continuiamo ad osservare. E poi ha detto, aggiunto, io non ho mai negato l'esistenza che continuasse a esserci il virus, insomma, sentiamo. Io non ho mai negato che questo virus esista, contagi e sia stato drammaticamente letale e pericoloso. Però sono stato anche il primo a dire: dobbiamo convivere con SARS-CoV-2, e l'ho detto senza tener conto di un eventuale vaccino, e quindi in qualche modo prevedendo che si arrivasse a questa situazione. Professor Bassetti, quindi a questo punto la sua posizione attualmente sulla situazione dell'Italia con gli aumenti anche dei contagi dalla fine delle vacanze, qual è? Ma guardi, la nostra fase è di una continuità sulla la prima ondata, con toni decisamente minori, soprattutto per quel che riguarda le ospedalizzazioni, ed è una fase evidentemente di convivenza. La nostra vita è evidente che non sarà più la stessa per molto tempo, lo abbiamo detto tutti, e la nostra vita non sarà più la stessa perché con questo virus dovremo convivere. Speriamo che il vaccino possa mettere una parola, non so se fine o sicuramente attenuare almeno alcune misure, però ci dovremo convivere. Lei diceva i 10 firmatari, guardi che è stato forse da qualcuno speculativamente parlando venduto in maniera sbagliata, non avevamo detto niente di quello che qualcuno ha riportato, né di negare l'evidenza, tanto più che io ho curato 1500 persone nel mio ospedale, quindi mi sono riboccato le maniche, ho lavorato per 3 mesi e mezzo di seguito senza mai fermarmi. Certo, però il professor Zangrillo aveva detto che era clinicamente morto. Ma su quell'espressione possiamo essere d'accordo che magari è stata forse esagerata. Lei sa bene, perché facendo la giornalista spesso i titolisti prendono un passaggio e ne fanno, come dire, un manifesto. È chiaro che il virus non è assolutamente clinicamente morto, perché se no non avremmo evidentemente i casi che continuiamo a avere. Anche quello se, che se l'aveva detto in TV, proprio dalla sua voce. Ecco, guardi, io non sono qua per difendere nessuno, io dico quello che le dico quello che io ho visto, e quello che io sto vedendo è che oggi noi, pur avendo numerosi contagi, perché continuiamo ad avere 1000, 1500, qualche volta anche di più contagi al giorno, abbiamo un numero di malati che rispetto ai numeri di marzo e di aprile è assolutamente risibile, come è risibile il numero delle terapie intensive, che certamente ne abbiamo, ma non è neanche minimamente paragonabile ai numeri che noi avevamo a marzo-aprile. Questo vuol dire che probabilmente là eravamo sulla punta dell'iceberg, qui siamo alla base dell'iceberg, nel senso che in Italia in questo momento qualunque stato, diciamo, simile influenzale viene immediatamente diagnosticato. Però le dico che l'esperienza che di tutti i giorni, perché io insomma sono rientrato dall'ospedale da pochi minuti, è che questi malati oggi vanno in maniera diversa da come andavano, e meno male, glielo dico. Certo. Quindi vede, questo messaggio non vuole essere un messaggio che liberi tutti, vuole essere un messaggio di speranza, che essendoci rimboccati le maniche, avendo fatto tutti un grande lavoro, credo, come sanitari, come sanità italiana, abbiamo probabilmente preso le misure a questo virus. Questo virus, secondo me, un po' ha preso anche lui le misure, nel senso che probabilmente morde di meno. Tutte queste cose insieme fanno sì che oggi, vi assicuro, che certi malati che io a marzo, aprile perdevo senza avere possibilità di appello, oggi li rimando a casa, e li rimando a casa bene. Quindi questo, secondo me, è un messaggio di speranza, che non vuole essere assolutamente un messaggio negazionista o un messaggio banalizzante. Siamo di fronte alla più grande pandemia della storia moderna, che però oggi possiamo dire che come Italia, come sistema Italia in generale, abbiamo gestito bene. Quindi siamo bravi a fare i tamponi, siamo bravi a tracciare chi ha il virus, abbiamo i posti in ospedale, li abbiamo in terapia intensiva, abbiamo medici preparati. Quindi tutto per dire che secondo me le polemiche... La possiamo gestire meglio. Professore, ecco. Senta, il fatto che c'è una situazione particolare in provincia della Spezia, provincia con maggior numero di contagi rispetto in rapporto al numero di abitanti, le risulta? Ma sì, assolutamente, perché guardi, io stiamo dando ovviamente come rete infettivologica e come rete dell'emergenza, insieme all'amico Grattarola, una mano agli amici e colleghi di Spezia. Le dico, la situazione vede un cluster che è partito probabilmente dalla regione toscana e che vede numerosi contagi, però di nuovo anche qui vede, sì che ci sono stati alcuni decessi, però hanno riguardato ultra novantenni con plurime patologie. Lì dobbiamo piangere tutti allo stesso modo, perché i morti non valgono solo di serie A di serie B, però è evidente che quando ci sono dei decessi su questi soggetti, probabilmente anche un'influenza stagionale, un altro microorganismo avrebbe potuto rappresentare la goccia che faceva traboccare il vaso. La maggioranza dei contagi, scusi che le dico, sì, a Spezia sono per fortuna non di alta gravità, quindi professore, comunque una parola attrezzata. Tiene, proprio una parola in sintesi sulla riapertura della scuola. Lei è preoccupato, professor Bassetti? Ma io sono io qui ho la doppia veste da padre e da medico. Da padre dico che le scuole non possono non riaprire, perché è evidente che dopo che si sono chiuse il 20 di febbraio, io credo che sia giusto ritornare a dare ai nostri figli una socialità, che è quella che conta di più, perché una scuola senza socializzazione è una scuola che non ha senso di esistere. Io credo che il rischio zero, come ha detto il ministro, e devo dire che ho molto apprezzato la sua dichiarazione di oggi, non esiste. Dobbiamo prendercelo questo rischio, perché non è che se spostiamo le lancette in avanti di due settimane il rischio va a zero. È evidente che ci sarà rischio anche tra due settimane. Quindi si è posto un obiettivo, che è quello del 14 settembre, credo giusto, dove ci sono le condizioni di iniziare, e vedremo se questo modello funziona. Io credo che tutte le linee guida sono state prese e bisogna provare a vedere se funziona. L'unico modo è quello di provare sul campo. Grazie professor Matteo Bassetti, la ringrazio come medico e come padre. Buona continuazione. Buona sera, grazie anche a lei. Grazie. Allora, ci prendiamo questa pausa di riflessione. Voi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se ascoltate Effetto Notte, un giorno non potrete mai dire "io questa non la sapevo", ma non potete dire neanche la sera stessa, perché c'è un ascoltatore, volete scriverlo, sapete, le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i WhatsApp, sempre a me, Roberto Giordano, al 349-238-6666. Un ascoltatore dice: Roberta, avresti potuto chiedere qualcosa sulla quarantena di 7 giorni al professor Bassetti del San Martino di Genova, che ho avuto adesso poco fa. e sono partita proprio da lì i primi minuti tutti sulla questione della quarantena, della riduzione che la Francia vuol fare da 14 a 7 giorni. Dico io, se qualcuno mentre ascolta Effetto Notte gira la minestra oppure va un attimo in bagno o parla al telefonino o scende dalla macchina, che ne so, non potete bere proprio la sera stessa. Un conto se uno qualche giorno dopo dice: ah, quella cosa me la son persa, è stato detto, può l'ascoltatore ritornare distratto, molto distratto, poi a seguire il podcast sul sito di Radio 24, perché adesso dobbiamo passare ad altro. Secondo me non c'è nessun tipo di braccio di ferro da fare, non si è ceduto sul referendum, il PD ha votato sì nell'ultima votazione per il taglio dei parlamentari e non vedo che cosa sia cambiato da allora ad oggi per dire noi abbiamo ceduto. Avete votato sì come partito in Parlamento, dite anche pubblicamente al vostro elettorato di votare sì per una doverosa riduzione del numero dei parlamentari. Detto questo, che cosa c'entra il MES? Si fanno le cose giuste. Il taglio dei parlamentari è una cosa giusta che ha votato il Parlamento. Il MES noi riteniamo non essere una cosa giusta, ma soprattutto non è una cosa necessaria oggi. Su cosa polemizza, su cosa sta criticando, insomma, su cosa ha parlato l'esponente del Movimento 5 Stelle Toninelli? Sul fatto che ieri c'è stata la direzione del Partito Democratico, è passata la proposta del segretario Zingaretti del partito unitariamente di votare sì al taglio dei parlamentari il 20 e 21 settembre, quando ci sarà il referendum, e secondo, diciamo, le ipotesi, le analisi politiche, c'è stato come una specie forse di scambio, nel senso che questo avrebbe rinforzato l'alleanza di governo del PD col Movimento 5 Stelle e quindi il Movimento 5 Stelle magari potrebbe ammorbidirsi, fra le altre cose, sull'utilizzo del MES, il meccanismo salva stati europeo, sul quale per esempio il PD ma anche Forza Italia all'opposizione insistono che si utilizzino quei fondi dell'Unione Europea per la sanità. Barbara Fiammeri, ben ritrovata cara Barbara. Esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore. Barbara, lo stesso Di Maio oggi però ha detto: il fatto che ieri il PD si è espresso per il sì al referendum sul taglio dei parlamentari, che sappiamo essere cavallo di battaglia da sempre del Movimento 5 Stelle, ha detto Di Maio, rafforza l'alleanza di governo e ci permette di affrontare le prossime due settimane con la lealtà che ha sempre contraddistinto questa coalizione. Come stanno le cose, sì, quindi, Barbara? Diciamo è un doveroso tributo che Di Maio fa, perché chiaramente Zingaretti è in queste settimane è stato ed è in difficoltà, perché comunque una parte significativa del suo partito, esponenti del suo partito che peraltro hanno sostenuto nella sua corsa alla segreteria, per esempio come Cuperlo, si erano espressi in modo contrario al referendum, cioè dicevano appunto che avrebbero votato no. Quindi ieri la direzione poi ha ratificato la proposta del segretario appunto di votare sì, però è stato un sì sofferto. Quindi oggi questa frase di Di Maio io la leggo come insomma un andare incontro a una difficoltà di un alleato che ha fatto uno sforzo così. Detto questo, l'accenno che tu facevi appunto con cui hai cominciato facendo sentire Toninelli sul MES, beh, secondo me ancora ci sarà parecchio da discutere. Penso che più che quello che dice Di Maio, quello che dice Zingaretti, sarà fondamentale quello che succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché sappiamo che i soldi del Recovery Fund arriveranno nella seconda metà probabilmente del 2021, quindi ci sono parecchie cose da fare e soprattutto sul fronte sanitario, insomma, se ci sarà la necessità di fare degli investimenti, come sembra che ci sia, io penso che alla fine sul MES in qualche modo si dovrà arrivare a una conclusione. Cioè, io non capisco perché si faccia un braccio di ferro e invece non si valuti proprio il merito, perché la cosa sbagliata secondo me che stanno facendo sia il Movimento 5 Stelle sia il PD, ma potrei dire diventa esempio una questione ideologica. Barbara, però sì, poco fa Conte alla festa dell'unità di Modena ha detto: se ci sarà bisogno del MES lo valuteremo assieme, proporrò una soluzione al Parlamento, esamineremo nel dibattito parlamentare in massima trasparenza i regolamenti legati al MES. Quindi forse un ulteriore piccolo passo. Sì, appunto è questo che stavo dicendo, cioè alla fine poi più che le parole di Zingaretti sul MES o la risposta di Toninelli piuttosto che di Di Maio, conteranno i fatti, cioè conterà la necessità poi di fronteggiare alcune necessità, alcuni investimenti investimenti e la penuria di risorse che noi abbiamo. Quindi a quel punto sarà, come dire, si andrà in automatico. Barbara, adesso ti voglio far sentire Conte invece sulle alleanze regionali. Oggi era in visita di Stato in Libano e in questo punto stampa che ha fatto ha detto praticamente che lui aveva cercato, no, di spingere PD e Movimento 5 Stelle ad allearsi nelle regionali, nelle sfide regionali. Dice, però io adesso non do indicazioni, ci avevo provato. Sentiamo. Il Presidente del Consiglio, come sapete, quindi chi vi parla, ha fatto un invito pubblico. E ho detto le forze di maggioranza che sostengono questa esperienza di governo farebbero bene a sedersi intorno a un tavolo per dialogare anche a livello territoriale. In quell'invito non mi sono permesso di dare indicazioni su candidature, di dare indicazioni di voto, ho fatto un invito al dialogo. Ecco, dice qui più di così, e vabbè, tranne che in Liguria, insomma, non se ne è fatto molto. Vedremo poi il 20 e il 21 come andranno le regionali oltre il referendum. Sentiamo però Salvini, che anche oggi a 24 mattino qui a Radio 24 ha ribadito, il leader della Lega, che queste le elezioni regionali non avranno ripercussioni sul governo. Ma non è un voto ideologico quello delle regionali, non è il voto europeo o il voto politico nazionale, è un voto per la sanità, per le strade, per la raccolta dei rifiuti. Non avrà un impatto sul governo, dice no, lei, questo dal voto? Dal mio punto di vista no, sarà un voto dei fiorentini per i fiorentini e dei baresi per i baresi. Il voto dei cittadini, fortunatamente, è libero, è democratico ed è sempre una sorpresa. Io, girando l'Italia, sto sentendo tanta voglia di concretezza, di cambiamento. Oh, Barbara, qualcuno pensa che Salvini improvvisamente, dal voler far 7-0 con prendersi tutte le regioni che sono al voto, invece fa queste dichiarazioni così moderate perché teme di che, insomma, non vadano esattamente come vorrebbe queste elezioni, per chiudere, Barbara. No, io non penso proprio che sia questo il motivo. Io penso che Salvini abbia imparato la lezione dell'Emilia, o qualcuno gliel'abbia fatta imparare. E quindi ha capito che lì, dove aveva ideologizzato, politicizzato moltissimo il voto, sostenendo proprio votate contro Bonaccini, contro l'attuale amministrazione, e faremo cadere il governo Conte, ha capito la lezione, perché questo tipo di approccio ha mobilitato sostanzialmente tutto un elettorato che fino a quel momento era rimasto un po' silente, parlo ad esempio delle sardine, come ricorderete, e non sta rifacendo lo stesso errore. In particolare io insisto sulla Toscana, perché la Toscana è una regione che si dava per scontata al centro-sinistra, invece è una regione che tutti i sondaggi ci dicono contesa, contendibile, e quindi Salvini sta evitando di fare citofonate, appelli al popolo, insomma di parlare alla cosiddetta pancia, perché deve prendersi il voto moderato, se no lui in Toscana non vincerà mai. Chiarissima, cara e Barbara. Per prendere il voto moderato deve evitare certi, e quindi ci dice adesso che non è un voto politico, ma sappiamo benissimo che il giorno dopo le elezioni, ma vale per Salvini come può valere per Zingaretti o per Di Maio, chi perderà dirà che non conta per il governo. Chi avrà vinto dirà che conta, dirà invece e come. Che conta. Chiaro, ci aspettiamo allora il 20 e 21 settembre, ma tanto ci sentiamo prima, cara Barbara Fiammeri. Grazie. Un abbraccio a voi, buonasera. Ciao Barbara, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Devo confessare, ieri sono rimasto veramente fortemente colpito, vorrei dire anche scioccato, e mi rendo conto che uso una parola forte. Fermiamoci un attimo tutti a riflettere, fermiamoci a riflettere. Cosa diremo ai nostri figli? Io ho un ragazzo di 13 anni, che cosa gli dirò? Di non intervenire laddove vedrà una lite domani mattina, domani sera? Cosa diremo? Che messaggio trasmettiamo ai nostri figli? Quali rischi vanno incontro i nostri ragazzi? Presidente del Consiglio Conte, che oggi ha parlato appunto del ragazzo pestato a morte a Colleferro nella notte tra sabato e domenica, Willy Duarte, e oggi ha telefonato anche i genitori, che si sono detti insomma emozionati di questa telefonata del Presidente del Consiglio. Torniamo a parlare di questo fatto terribile con Raffaella Calandra, la nostra Raffaella, ciao. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Ciao Rafa, oggi sono stati i primi interrogatori, no, dei quattro ventenni che sono rinchiusi a Rebibbia, e in particolare i due fratelli, considerati da molti ragazzi della zona picchiatori, violenti, eccetera, i due fratelli bianchi, hanno respinto le accuse. Sì Roberto, oggi c'erano gli interrogatori per la convalida del loro arresto e il giudice, diciamo, si è riservato una decisione che arriverà comunque nelle prossime ore. Ebbene, davanti al giudice i quattro arrestati con l'accusa di essere i responsabili della morte di Willy Monteiro Duarte hanno respinto le loro accuse. Responsabilità, hanno detto di non avere alcun tipo di responsabilità nella morte del venturenne di origini capoverdiane, ma soprattutto hanno detto di essere intervenuti per cercare di dividere persone che erano già coinvolte in una rissa, e hanno detto di essere andati via, di non aver neanche toccato il ragazzo e di essere andati via da quel luogo senza rendersi conto che il ragazzo era a terra. Ora diamo un po' una spiegazione del perché questa è stata la loro versione. C'è un tema adesso da stabilire: chi abbia dato i colpi, i calci e i pugni al ragazzo quando era già a terra, che sono stati poi fatali, cioè quelli che hanno determinato e provocato la morte. Quindi a questo punto, tra i due fratelli, Marco e Gabriele Bianchi, e ancora gli altri due che sono stati arrestati, c'è stata quasi una forma di allontanare il più possibile ciascuno per la sua parte le responsabilità e cercare di scaricare sugli altri del gruppo le responsabilità fatali. Perché sullo sfondo c'è anche il timore dal punto di vista degli indagati che l'accusa da omicidio preterintenzionale, che è quella che è stata contestata loro e diventi volontario, esatto, possa diventare un omicidio volontario, per cui queste versioni da parte degli indagati davanti al giudice sanno anche inevitabilmente di strategia difensiva. L'avvocato dei due fratelli Bianchi, ma anche di un terzo indagato, ha anche preannunciato che nelle prossime ore depositerà in procura altre testimonianze a loro dire diverse rispetto a quelle raccolte dagli inquirenti, che suffragherebbero la responsabilità dei quattro nel pestaggio fatale, e che secondo dell'avvocato, insieme alle immagini del video di un locale, darebbero un'altra ricostruzione dei fatti. Però il giudice si è riservato ancora la decisione rispetto alla convalida del fermo. Di sicuro resta, come abbiamo sentito nelle parole del Premier Conte, lo shock per un fatto di una violenza gratuita e feroce che è costato la vita ad un ragazzo di 21 anni. Una violenza che possono attuare soltanto veramente dei miserabili. Grazie Raffaella Calandra per questi aggiornamenti. Ciao Raffaella. Roberta, grazie a te. Ciao. Poi invece adesso colleghiamoci per un po' di serenità, almeno per l'argomento in sé, ma ci sono film molto impegnativi, con la 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Là c'è al lido la nostra Marta Cagnola. Ciao Marta. Ciao Roberta, sì, diciamo serenità, ma oggi è la giornata del terzo dei quattro film italiani in concorso e già la firma di Gianfranco Rosi ci fa capire che parliamo di documentari e di un documentario molto impegnato e anche tecnicamente impeccabile. Allora, Gianfranco Rosi ha già vinto il Leone d'Oro con Sacro Gra, ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino con Fuoco a Mare, quindi è una firma dei documentari conosciuta in tutto il mondo. Infatti questo Notturno non sarà solo a Venezia, ma farà il giro dei festival, perché è stato invitato in questo periodo anche a New York, a Londra, a Busan, a Tokyo, insomma andrà in moltissimi festival nelle prossime settimane. E sarà già da domani nei cinema italiani, quindi potrà essere subito visto. Allora, nella presentazione al pubblico di questa sera in Sala Grande ha ricevuto 10 minuti di applausi. Caspita, quindi da molto, vedere, molto insomma, apprezzato. Domani. Allora, è stato girato in 3 anni, prima ci sono stati 6 mesi di preparazione, poi 6 mesi di montaggio, tra Iraq, Kurdistan, Turchia, insomma. Quindi nelle guerre del Medio Oriente. sì, in luoghi veramente difficili, racconta delle storie umane, è davvero da vedere, è davvero da vedere, è un documentario molto bello. Poi c'è Laila in Haifa, Marta, che sempre anche questo, no, sulle tensioni in Medio Oriente, con protagonista una donna, tra l'altro il regista ha detto delle cose molto belle sulle donne, che gli diceva sua madre, diceva un paese, che una nazione che non rispetta le donne, una nazione perduta, dice, se le donne fossero al potere non succederebbero le cose che succedono per esempio in Medio Oriente, no? Sono d'accordissimo. La In Haifa è un film in realtà un po' particolare, perché è un film senza una trama definita, è una serata in un locale notturno di Haifa frequentato da giovani arabi e giovani israeliani, ci sono storie d'amore, ci sono storie di corna, si balla, insomma è uno spaccato di vita, e le tensioni in Medio Oriente sono sotto traccia in tutti questi incontri, soprattutto con queste cinque donne. Invece Marta, che... Leone d'Oro alla carriera per un'altra donna dopo Tilda Swinton, attrice e una regista. Qui allora è l'anno delle donne, era stato criticato Barbera perché negli scorsi anni il numero delle registe era insufficiente, e quello delle registe è un problema atavico, perché già spesso già le ragazze, quando vogliono fare il cinema, desiderano fare le attrici e non le registe, è proprio un problema culturale. So, di formamenti, sì, culturale, e quest'anno insomma grande rivincita, Kate Blanchett, Tilda Swinton, e adesso anche qui col suo premio alla carriera e anche un film in anteprima che vedremo love. Nelle prossime ore. L'amore dopo l'amore. Allora, buon amore, grazie Marta Cagnole, buon cinema, ci risentiamo nei prossimi giorni, domani praticamente. Grazie. Ciao Marta, noi ci aggiorniamo brevemente alle 22. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.